Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io sono brasiliana. Mia figlia è italo-brasiliana. Diane Melo. E lei? Ho 26 anni. E lei ha creato questo vestito? Sì, assolutamente sì. Ho pensato indubbiamente, io ho due muse, una in particolare che è Giulia Salemi. Anche Diane, sì, assolutamente sì. A me piace risaltare le donne in tutto il loro splendore. Come sono? No, le esalta un po' troppo. Allora, la moda torna negli anni 70, quindi tante pizzettature, colori forti e poi dopo spacchi provocanti, perché si ricordi che nel settembre si propone la moda del primavera-estate 2017. Ah, ma guardi queste ragazze, signora. Ma non si può andare in giro così, no. Ma va? Però scusi. Devo dire, ne parlo con dolore, ne avrei fatto meno volentieri, ma l'urgenza della cronaca mi impone questa mattina di parlare anche io di quello di cui stanno parlando tutti, pagine intere nei giornali questa mattina, nei social network si stanno infiammando, soprattutto le donne, a definire quello che è stato lo scandaloso sfilare sul red carpet della 73esima mostra del cinema di Venezia di Giulia Salemi insieme a Diane Mello, che hanno degli abiti bellissimi, in tutte le sfumature dal fucsia a rosa, che però lasciavano totalmente scoperta l'area inguinale, con una sorta di gioco del vedo e non vedo, in cui si poteva immaginare e supporre che fossero sprovviste, sai che scandalo, sai che cosa indicibile, comunque di quel accessorio minimale e ridotto ai mini termini che sono le mutande. Vi lascio la sorpresa, presto capiremo cosa c'era sotto con le velature, per capire, partendo da un dato concreto di cronaca, di cosa stiamo parlando. Però vorrei sottoporvi un altro tipo di riflessione, che è un po' difficile, proprio inseguite, mi aiuterete molto contribuendo questa mattina al senso di questa trasmissione. Secondo voi, verrà un giorno benedetto in cui le donne potranno essere senza regole? Le donne l'ascolteranno, magari non averci più le regole, sarebbe meraviglioso, saremmo libere comunque da questo impero, ma al di là dell'aspetto puramente fisiologico, la donna è regolata, ha delle regole, l'uomo non ha le regole, la donna ha delle regole, quindi la donna in qualche maniera è condizionata rispetto all'uomo. Ma al di là di questo tipo di regola, esiste la necessità comunque di stabilire sempre delle regole per le donne, e tante volte sono le stesse donne che ribadiscono la necessità di queste regole. Vi faccio due esempi. Uno degli argomenti e i tormentoni di quest'estate sono state le ordinanze di alcuni sindaci della Costa Azzurra, Cannes, Villeneuve-Loubet, che hanno detto mai più burkini sulle nostre spiagge. Le donne musulmane che indossano il burkini, una sorta di scafandro in cui possono fare comunque il bagno, è un segno di integralismo, un segno di schiavitù. Noi siamo un paese libero, laico, Marianna va in giro a tette nude, quindi loro pure devono andare a tette nude, o comunque devono mettersi un costume, no il burkini. E si è diviso il pubblico femminile fra quelle che dicono no, hanno pieno diritto di mettersi come vogliono, sono donne, sono libere, vogliono mettersi il burkini, peggio per loro, credono in un principio superiore divino che li impone star coperte e stiano coperte. E altre che dicevano no, è uno strumento di schiavitù, come negli anni 60-70 bruciavamo i reggiseni in piazza, obblighiamo noi laici, in nome di una sorta di legge laica, di non mettere il burkini. Le stesse donne a distanza di qualche settimana sono quelle, le riconosco, potrei fare i nomi, tutte le mie amiche, che schifo, che scandalo, fanno intravedere la passera a queste due donne. Ora ragazzi, qua stiamo parlando di Giulia Salemi, arrivata terza a Miss Italia del 73, dove la prima oggi fa la tronista da Maria De Filippi, quindi non è che stiamo parlando di metrapans e di ragazze che giustamente sono belle, appariscenti e usano il patrimonio della loro bellezza per farsi strada nella vita. Non trovo nulla di scandaloso, la bellezza è un valore come valore l'intelligenza, la sagacia, la profondità spirituale, sono belle e fanno vedere ciò che più hanno di bellezza, ma anche su questo non va bene. In un mondo in cui tutte la fanno vedere ormai, basta digitare passera su un motore di ricerca, ne vedete a quintali, vanno sul red carpet della mostra di Venezia a pubblicizzare un film che parla del Papa, la serie televisiva di Sorrentino che parla del Papa, però non si parla tanto del Papa giovane di Sorrentino, guarda lì che scandalo, ma si parla della cosa più antica del mondo, di quello di cui gli uomini hanno sempre avuto una grande paura e ancora ne abbiamo tanta paura. Vi ripongo la domanda, secondo voi verrà un giorno in cui le donne potranno essere senza regole? 800240024, a tra poco. Melog. Cronache meridiane. Alcuni comuni della Francia mettono al bando il burkini in spiaggia, una presa di posizione forte contro il costume per le donne musulmane che copre l'intero corpo. A mettere il sigillo all'iniziativa è il premier Valls, per il quale il burkini è incompatibile con i valori del nostro paese. Non è un costume da bagno, spiega, ma l'espressione di un'ideologia basata sull'asservimento della donna. E a dimostrazione che la Francia fa sul serio, ci sono già le prime multe. A Cannes, 3 donne sanzionate con 38 euro. Naturalmente ho detto un'inesattezza. È chiaro che Giulia Salemi non è arrivata terza a Miss Italia del 73. Il 73esimo era la mostra del CIA di Venezia. Miss Italia di 2 anni fa, se no sarebbe una sorta di resumazione cadaverica. Non è esattamente così. Una bellissima ragazza, è giusto. Mette a frutto la sua bellezza. Ma vi faccio riflettere perché ho messo queste due cose in parallelo. Noi in realtà abbiamo anche noi delle regole imposte alle nostre donne. Sembrano regole meno pesanti, meno gravose, perché sono nell'indice della spensieratezza, della dissolutezza, della libertà dei costumi, ma sono senz'altro regole. Giulia Salemi deve comunque indossare un abito che richiama l'attenzione su una sorta di banale spudoratezza che non offende nessun pudore, ma allo stesso tempo ritrova una morale braghettona e quasi antica, parrocchiale, nei social media, dove tutte le persone dicono no, ha esagerato, ha fatto intravedere il lingue. Allora, vi ricordo qualche anno fa Belén Rodríguez fece un gesto molto più pericolato e periglioso, fece la stessa cosa al Festival di Sanremo, che è una sorta di sagrestia dell'Italia, con la famosa farfallina. Allora cosa sarebbe dovuto succedere? Fu oggetto di polemica, ma a distanza di anni, ancora, se una donna fa intravedere qualcosa nella sua area inguinale, anche molto ben coperta, hai sentito lo stilista, poi sono sempre stilisti, diciamo, dalla mascolinità naturalmente non certo evidente, che decidono che le donne non farla vedere, sono loro che vestono le donne e costringono le donne comunque a mettersi le cose per cui poi se ne parli. La Salemi dice accetto le critiche soltanto costruttive, ma che dire, poverina, oggi sarà lì a brindare champagne perché tutto il mondo parla di lei, sennò altrimenti ci saremmo scordati della sua esistenza. Ma vi faccio riflettere sul fatto, lo spacco inguinale da ostentare in televisione perché tutti ne parlano equivale al burkini? Andrebbe vietato secondo voi, visto che a voi dà così fastidio, signore, che considerate una sorta di tradimento alla regola femminile? E chi stabilisce la regola? Se sia meglio lo spacco inguinale o sia meglio il burkini, o ci sia libertà di tutto? Se c'è libertà di tutto, c'è libertà di quello e dell'altro. Noi abbiamo delle corrispondenti regole ferree, magari non scritte, magari che non costano il taglio della testa o la fustigazione per chi contravviene a questo, ma immaginate che le nostre donne, bene o male, si fanno iniezioni in faccia, si fanno stagliuzzare, si fanno stirare, fanno cose dolorosissime e lo fanno perché c'è una regola non scritta che impone a loro di essere magari eternamente giovani. 800240024, quindi come la vedete voi? È, ripeto la domanda, secondo voi verrà un giorno in cui le donne non potranno essere senza regole? Velocemente, Elena, ascoltatrice, buongiorno. Allora, buongiorno. Allora, guardi, io dico sì e no, perché la donna di per sé stessa ha sempre rispettato le regole. Già, e non si mette a ridere perché è la verità, guarda questo, anticamente le mestruazioni si chiamavano regole. Vabbè, ma scusi, no, Elena. Io l'ho detto così all'inizio, proprio perché ho detto la donna è fisiologicamente sottoposta a delle regole, vengono chiamate regole. Sì, certo. Ecco, la radio fa alti e bassi in questi momenti per questo. Allora, noi donne siamo fisiologicamente sottoposte a delle regole, però mi creda, in tempi felici questo può avverarsi. E quando si tratta di una guerra, e qui ricordo la mia povera mamma, le regole saltano tutte, perché mia madre è stata una delle sopravvissute ai bombardamenti di Trapani e si copriva con i 4 stracci che riusciva a trovare, addirittura per un periodo di tempo andava in giro con una minigonna e nessuno diceva niente, nessuno parlava di regole, c'era soltanto il cosiddetto decoro e coprirsi. Quindi in tempi più felici le donne amano rispettare le regole, nonostante il qua la facciano finta di... Quindi secondo lei la donna è contenta di avere una regola? La regola è, diciamo, è la chiave della sua esistenza, sono regolata fisiologicamente, quindi mi stanno bene le regole. Quindi in teoria ci vorrebbe una regola scritta, ti metti il burkini o non ti metti il burkini, oppure è lecito faccia vedere fino a un certo punto quelle che sono, diciamo, le tue diciamo intime aree protette, una cosa del genere? Sì, però le voglio dire pure questo, che nel caso della passerella di Venezia anche la donna qui si scandalizza, mi creda, parlo da donna, la donna si scandalizza anche per invidia quando capisce che qualche cosa è per lei non raggiungibile, tutto ciò che è raggiungibile allora insomma la pone in una posizione diversa. Allora Elena, lei ha iniziato questa trasmissione con una grande e spudorata saggezza: l'invidia della passerella femminile fa sì che le donne siano le prime, come accadeva nei periodi terribili delle guerre civili, che le donne dell'una e l'altra parte erano le prime a subire il vilipendio delle altre donne, le donne che saranno date al nemico, all'invasore, al despota, comunque erano quelle che subirono per prime la furia iconoclasta delle altre donne, le colpivano proprio, guarda caso, proprio nella loro femminilità. Marta Cagnola, buongiorno. Ciao Gianluca, sai che cosa stavo pensando prima di collegarci? Che ancora nessuno aveva detto tutta invidia, e invece l'abbiamo detto, quindi abbiamo chiuso il cerchio, sono contenta. La nostra ascoltatrice ha posto il punto, dice: le regole che le donne si impongono molte volte sono una sorta di autoregolazione del gineceo, in cui le donne che sono le più pericolose, quelle a guardare con occhio più sospettoso, sono le donne belle, vadano comunque regolate. Ma perché parlo con Marta Cagnola? Marta Cagnola parlo perché è l'inviata di Radio 24 alla 73esima edizione della Mostra del Cinema. Marta Cagnola ha anche una esperienza diretta. Marta Cagnola è stata una delle poche persone che proprio a quanta distanza, di pochi centimetri, ha potuto vedere cosa aveva sotto quel drappeggio da Ian Mello. Racconta nei minimi particolari, così partiamo da un dato di fatto concreto. Questa è cronaca, quindi è un dovere che ti si impone. Testimone oculare, terrazza dell'Excelsior, arriva questo schianto di ragazza meravigliosa con questo abito fucsia, lei di una bellezza imbarazzante, un abito lungo, non bellissimo, con una brutta cintura, un abito assolutamente normale, a pochi centimetri da me apre la gonna come se fosse un sipario. Quindi te l'ha fatta vedere immediatamente. Si svela lo svelabile, l'epifania, dal verbo greco che significa mostrare e mostrare tutto. Io ho avuto un momento di mancamento. Si chiama sindrome di Stendhal, accade davanti alle opere d'arte naturalmente. Sì, sei sentita mancare? Sì, assolutamente, per ovvie ragioni, niente che io non avessi mai visto nella mia vita. Beh, ne avrai viste in palestra, frequenti le palestre. Sì, insomma. Ma qual è stato, però, diciamo, qual è stata la spudoratezza di averti alzato il sipario e dire: guarda qua? Ecco. Magari non ha una forma diversa dalle altre, però voilà, e voilà. Però scusami, ferma un attimo, lasciando ancora, perché ancora non abbiamo detto cosa c'era sotto. Fra le due persone, fra la Salemi e la Mello, in realtà è entrata perfettamente, molto meglio, fino in fondo nel ruolo della donna senza regole, perché mentre Giulia Salemi oggi fa l'agnellino, sì, ditemi le critiche costruttive, in fondo volevo pubblicizzare il vestito del mio amico, non ci prendere in giro, sapevi benissimo che questa era una sorta di iniezione di formaldeide di celebrità. La Mello, da donna sudamericana, quindi molto più legata comunque all'istintualità, alla naturalità, t'ha alzato il sipario, te l'ha fatto vedere senza come se non ci fosse veramente nulla da nascondere. No, certo, con un gesto deciso, eravamo tre amiche e abbiamo avuto tutte e tre un enorme turbamento. Devo dire, le giustificazioni l'ho fatto per il mio amico, mi hanno un po' lasciato, cioè se fai, fallo fino in fondo. E quindi diciamolo, anche se poi l'abbiamo intravisto tutti, sotto non è che ci fosse la cruda nudità della ciuffosa matrice di ogni perdizione, c'era un'altra striscia di stoffa. C'era un'impressione di stoffa, un'illusione di stoffa, non so come dire, veramente poca, era molto molto poca. Copriva quello che doveva coprire, oppure indicava quello che doveva coprire. È come una freccia che indicava, diciamo, la via della salvezza. Sì. Ecco, dammi un tuo giudizio adesso da analista del cinema e dello spettacolo. Del film di Sorrentino, che doveva essere un film che avrebbe fatto scandalo, un giovane papa che fuma, che frequenta donne, via dicendo, non si è parlato con grande entusiasmo, ma si parla di due baluginanti passere, di due belle donne legate a questo film. Ma cosa ci azzecca? Ma allora, io non so come abbia preso Sorrentino questa cosa, perché tutto questo è avvenuto sul red carpet del suo film. Spesso non spieghiamo cosa sia il red carpet. Allora, red carpet non è semplicemente la passerella che fanno gli attori, i registi, i produttori, il cast, ma a Venezia sul red carpet si passa per entrare con gli inviti in sala grande, quindi puoi anche non avere nulla a che vedere con il film. È lo spettacolo nello spettacolo, diciamo. Certo, sfrutti la celebrità del film per farti fotografare. Loro l'hanno sfruttata. Sai, ti ricordi quelle cose un po' sensazione che faceva, quelle che si chiamano lucherinate, quelle che si inventava Enrico Lucherini, sì, per turbare le coscienze? Ecco, nel 2016 forse per turbare le coscienze bisogna inventarsi questo. Devo diciamo che appunto l'attrazione per le novità nel campo del cinema è così di così labile cifra che alla fine parliamo di questo perché non abbiamo un film su cui c'è qualcosa da dire di sensato. Guarda, è difficilissimo, è una riflessione che tra me e me faccio la mattina davanti allo specchio. Allora, se io posso consigliare un film da andare a vedere domani e dire agli ascoltatori: allora, oggi abbiamo visto questo, lo andate a vedere domani, io sono in pace con la mia coscienza perché so che è un consiglio che do a qualcuno che potrà andare a vedere un film. Se io vado a vedere un film che però probabilmente, come spesso accade nei festival cinematografici, nessuno vedrà perché non verrà distribuito, lo vedranno quattro critici, anche se è bellissimo, mi rendo conto che sono discorsi che vanno un po' nel vuoto. Invece queste signorine che vengono fotografate dappertutto sono indubbiamente un elemento di discussione molto succoso, altrimenti non saremmo qui a parlare. Lasceranno il tempo che trovano, perché poi in realtà il quotidiano sommergerà anche questa loro esposizione. Poi ne parliamo oggi, Sì, dimmi, Marta. No, se tutti citano ancora Belen, era il 2012, allora di Belen ce n'è una, bisogna inventarsi qualcos'altro. Vabbè, sai, c'è chi scrive poesie immortali, chi regala all'umanità idee di ingegno che salvano le vite, e c'è chi la fa intravedere e rimarrà scolpito sulla pietra tombale dei suoi meriti. Un giorno la fece vedere e il mondo ne fu felice. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Melog, cronache meridiane. Non è una puntata dedicata soltanto a quello che è accaduto alla 73esima edizione della Mostra del Cinema, che è l'argomento portante di tutti i giornali oggi, cioè l'esposizione di Giulia Salemi e da Ian Mello su red carpet delle loro parti intime più o meno baluginanti, ma è sul fatto che noi siamo sempre pronti comunque ad invocare delle regole per le donne, legate sempre molte volte al contenimento del loro corpo, della loro sessualità, della loro genitalità. Il burkini sì, il burkini no, ci ha appassionato tutta l'estate questo tema. Si è più liberali, più di sinistra nel dire che il burkini va tolto, va imposto lo sburchiniamento di tutte le donne sulle spiagge musulmane, italiane, cioè francesi, donne di fede musulmana, oppure bisogna dire ognuno è libero di fare quello che vuole, la donna si vuole coprire si copre, e la donna si vuole scoprire si scopre. Ma allora perché ci stiamo indignando, imponendo temi astratti come il buon gusto? Ma che vuol dire il buon gusto? Il buon gusto è un criterio talmente soggettivo che non esiste una regola generale. Marta Cagnola da Venezia ci ha detto che è una visione paradisiaca quella della Mello con quel vestito non bellissimo, ma lei era talmente bella che era come vedere una statua, come vedere un'opera d'arte, non c'era nulla che scandalizzasse. Eppure ci sono persone che oggi scrivono nei social, donne, anche donne soprattutto, tutta una vergogna per il genere femminile. Come la pensa Giovanni? Giovanni, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto grazie per la comunicazione e complimenti per la trasmissione. Guardi, io volevo dare un parere più che altro sull'argomento generale e poi sull'evento, insomma, del Red Carpet. Guarda, io personalmente sullo sdoganamento del corpo, della sessualità, insomma, il benessere nella nudità e quant'altro, ma anche semplicemente il comfort nello star bene con se stessi, quindi per forza super coperti, super vestiti, sono perfettamente d'accordo. Poi internet, come diceva lei, è un database infinito, insomma, di materiale di ogni sorta. Al contempo, però, io personalmente da Red Carpet mi aspetto, come dire, eleganza, prestigio, cioè come gli uomini me li aspetto in abito, in vestito, in smoking, come si usava un tempo, uguale cosa me l'aspetto dalle donne. Diciamo che quindi hanno violato una regola che impone eleganza allo smoking per gli uomini e lungo per le donne. Non per la nudità, è solo per il discorso di eleganza. Mentre su un discorso più generico, come giustamente anche lei adesso stava richiamando, al contempo, secondo me, in una spiaggia, per dire, piuttosto che in una nazione, insomma, secondo me alla fin fine una nazione, qualunque essa sia, è storia, è cultura, è una visione delle cose definito in una certa maniera. Però è sempre Italia. Regola, come vede, noi ci ricordiamo delle regole quando dobbiamo dire a una donna di osservare. Le ricordo una cosa, scusi, poi per dare ancora argomento alla sua riflessione. Certo. Mi sembra che sulla fine degli anni 50, un episodio che ancora se ne parla come una sorta dell'apice dell'oscurantismo democristiano, il presidente Oscar Luigi Scalfaro si alzò e schiaffeggiò una signora in un ristorante perché aveva le spalle scoperte, si copra. Per allora le spalle di quella signora equivalevano alla passera della Salemi oggi nei nostri giornali. Saranno passati quasi 60 anni, però è così, è la stessa cosa. Noi siamo come Oscar Luigi Scalfaro che allora schiaffeggiò quella donna. Mi sento di sentire, nel senso che un discorso di eleganza, insomma, l'eleganza esisteva nel Settecento, esiste tuttora. E questo ovviamente si evolve, quindi un tempo c'erano vestiti che coprivano fino alle caviglie, adesso le caviglie coperte sono impossibile da vedere anche in gennaio. Questo ci sta, è giusto, è una normale evoluzione. Al contempo però, come una nazione si evolve, un pensiero comunitario si evolve, al contempo, guarda, io poi personalmente sono naturista, quindi come la posso pensare. Però, insomma, secondo me anche sul discorso del burkini. Il burkini, per esempio, è un qualcosa che non appartiene forse alla nostra cultura. Però lei è naturista, però mi scusi, poi lo facciamo parlare anche altri. Dico, noi stiamo sempre riportando in campo alcune regole. Perché guardi, se fosse l'eleganza, è un termine astratto, quello che ci sembrava elegante 20 anni fa oggi fa schifo. Oggi se non c'è una giacca a filo di sedere non sei elegante. Se me la fossi messa 10 anni fa, mi avrei detto, poverino, deve mettere la giacca del suo fratello perché non se la può comprare una che è più piccolo. Ecco, capisci com'è? In realtà noi non è che imputiamo a queste donne una mancanza di eleganza, imputiamo a queste donne di aver mostrato qualcosa che è indicibile, è immostrabile. L'ho citato più volte, ci sono queste leggende dei mari in cui le mogli dei marinai, quando i mariti erano al largo e il mare era procelloso e rischiava di travolgerli, si mettevano in riva al mare e tiravano sulle gonne e mostravano la passera al mare. Era talmente forte il potere magico e misterioso di quello che avevano tra le gambe che avrebbe calmato la tempesta. Ancora oggi siamo esseri razionali, abbiamo superato tutti i tabù, ancora di fronte a questa cosa qui di una donna che impunemente, al di fuori del contesto, in un ambiente in cui comunque regolato, fa vedere questa cosa, ci siamo pronti a scandalizzarci. Questo è il mio pensiero. Cristina. Sì, salve, buongiorno. Allora, io sono un po' contraria a quello che diceva il signore di prima, semplicemente perché non è una cosa così culturale di uso, cioè nel senso non è un uso e un costume, è stata un'imposizione. Tutto questo coprirsi, questo spudore, questo avere paura della donna, perché è atavica la paura della donna nella storia, è sempre stato così. Nel 325 avanti Cristo ci hanno considerato senza anima al Consiglio di Nicea. Ma ancora qualcuno lo pensa, mi credo. Ecco, esatto. E allora bisogna porsi questa domanda, perché c'è stato nel passato questa paura della donna? Ma lei pensa che nel passato, mi scusi, il grande conflitto fra Oriente e Occidente, che oggi si regola a suon di bombe, di persone che fanno saltare, su cosa è? È sul controllo delle donne, fine, è la cosa fondamentale. È il controllo, la paura della donna, nei confronti della donna. Io ad esempio le faccio, io non mi tingo i capelli, ho capelli bianchi, però non mi vergogno di farmi vedere nuda. Cioè, e non voglio neanche vergognarmi, perché è un'imposizione. Io sono nata nuda, i più grandi artisti hanno ritratto i corpi nudi delle donne, anche degli uomini, siamo nati nudi. La religione ha avuto sicuramente un'influenza terrificante su questa cosa, e quindi è rimasta nella mente di tutti questa cosa. Lei risa per la porta, la sta un po' estremizzando, sono altri discorsi, è chiaro che sono discorsi astratti, la nudità in sé non si deve vergognare, però la copertura della nudità da quando nella leggenda chiamata religione Adamo e Eva hanno cominciato a coprirsi, si è capito che noi, grazie a Dio, ci hanno dato questa cosa fantastica, che ci piace scoprire le persone perché sono coperte, se no sarebbe una cosa tristissima. La nudità ha un suo senso, il mistero ce l'ha, tutto. È come? Però ce di fronte a tutto questo, che si imponga, si richiami le regole, la sacralità della mostra di Venezia, soltanto perché una poveretta per farsi nota ha fatto vedere questa cosa, mi richiama, messo assieme al discorso del burkini, il fatto che ancora non si ammetta che la donna non abbia regole. Questo è il mio punto di vista. Sonia, buongiorno Sonia. Sì, buongiorno. Posso sbagliarmi? Lei da donna mi corregga se pensa che la mia ipotesi è del tutto sballata. No, io non la correggo, perché la sua ipotesi è la sua di ipotesi. Io esprimo il mio pensiero, che quello che purtroppo oggi la questione di genere è una questione che viene sottovalutata in primis dalle donne. Cioè, noi donne è arrivato il momento che portiamo consapevolezza a questo status e a questo costante martellamento su qualsiasi cosa la donna, qualsiasi cambiamento si voglia apportare nel mondo femminile, e questa è la dimostrazione, quello che stiamo discutendo oggi e quello che è avvenuto sul red carpet, ed è una grande ipocrisia tra l'altro questo di non poter mostrare una parte del corpo quando ovunque regna il disastro che sta portando la pornografia e tutto quello che è la repressione sessuale e la repressione del corpo. Le do un altro elemento, Sonia, si rende conto che però quando vengono mostrati dei modelli assoluti di donna è Madre Teresa di Calcutta, che nulla a che fare con l'essere donna, è totalmente un'altra cosa. Mi perdoni che ha una sensibilità di questo tipo, però lo dico, le donne esemplari sono donne che fanno tutto meno quello per cui in realtà esistono le donne, di essere altre cosa, o sbaglio? No, c'è anche questa di questione, certo, l'universo femminile è talmente vario e complesso, il problema è proprio questo, di guardare la donna sotto vari punti di vista, di accettare che la donna faccia delle scelte e che possa scegliere, portando nel mondo le qualità della donna, certo, lo sfruttamento, le donne che si lasciano sfruttare dal mondo maschile, come dire, hanno creato e creano dei problemi. In questo caso, quando si parla di moda, poi non è nemmeno il mondo maschile in assoluto, cioè chi dice, siccome la moda è pensata da stilisti, che sono stilisti che hanno una visione del mondo, diciamo, più bizzarra di una così sedimentata polarità maschile, cioè, vogliono creare donne che in realtà sono degli oggetti a tutti gli effetti, quindi le vestono come manichini, le vogliono anoressiche, le mostrano come fosse qualcosa che in realtà nulla a che fare con la donna. Perché? Perché in realtà per loro le donne sono soltanto manichini su cui mettono i loro vestiti, la loro creatività e via dicendo. Un uomo vero tratterebbe diversamente la donna. Sono punti di vista, chiaramente, li riporto. Ci fermiamo un istante in ascolto, intanto abbiamo Marco che fra un po' ci parlerà, ma fra un istante. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Mi scrive un ascoltatore, ma non volevo rimarcare questa cosa di così basso conio. In realtà la Mello e la Salemi hanno glorificato la migliore sineddoche di tutti i tempi. Vogliamo dire la passerella sulla passerella, sai che risate, è una cosa un po' vecchia, un po' passata. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. La sto ascoltando. Ah, la ringrazio per farmi partecipare, volevo solo dare la mia opinione, la sento sempre e molto tempo che volevo magari dire qualcosa su... ne approfitti oggi. Ok. Guarda, no, io sono... la sento sempre, sono contrario alle sue posizioni, magari anche su queste punti. Ma andiamo in merito a questo argomento oggi. Secondo lei verrà mai un momento che la donna potrà dirsi libera da ogni regola? Allora, io su queste, su questa domanda io dicevo alla persona che mi ha chiamato che no. Le donne, io non voglio entrare nel punto astratto del concetto questo, perché... No. L'astratto, ognuno ha il suo parere, ognuno ha il suo... Ma l'ascolto, non abbia, lo dica il parere, però. Il parere mio è che la donna non si leverà mai, non potrà essere mai libera, perché sono tutte le regole fatte dell'uomo, e l'uomo detta le regole, anche la donna, nel modo generico. Cioè, non avrà mai un mondo senza pornografia, non avrà mai un mondo senza moda, non avrà mai un mondo senza, non so... cioè, tante cose che girano intorno alle donne che produscono tanto soldi. Quindi non diciamo la donna, può comunque... liberare la donna è un prodotto che ci fa guadagnare tanto. Sì, diciamo che allora l'aspetto estetico e seduttivo della donna fa sì che diventi anche un prodotto. L'uomo, magari in epoche più arcaiche, le regole le imponeva per tenersela vicino, perché non gliela portassero via altri uomini, quindi la incatenava, la legava, la bastonava se usciva e via dicendo, oppure la faceva bruciare se minimamente dava dei segni di autonomia. Oggi, e questo è perfettamente in linea con quello che volevo dire, il grande sistema dell'estetica esasperata, dell'eterna giovinezza, della bellezza a tutti i costi, dei modelli artificiali, donne magrissime inesistenti, della Barbie trasformata in essere umano e via dicendo, fa sì che sia una sorta di grande burca mentale che l'uomo occidentale civilizzato impone comunque alle donne. Dà alle donne una regola, perché in fondo la donna serve. Una volta serviva a pulire casa, a spicciare casa, a cucinare, a occuparsi dei figli, oggi serve a incrementare un grande mercato. Può essere una tesi che merita probabilmente anche altro approfondimento, ma degna di attenzione. Stefano. Buongiorno. Il punto è questo: il vero colui che davvero rompe una regola è solo il primo. Chiunque venga dopo nella rottura della regola sta già ripetendo un qualcosa di già visto. E in questo caso mi rilascio alla questione specifica della passerella. Io lì non ho visto altro che il semplice mettersi d'accordo fra una bella ragazza e uno stilista per fare un po' di pubblicità sulla scia di ciò che è accaduto qualche tempo fa con la bellissima Bella Did, la quale con uno spacco vertiginoso, ma al contrario di questo caso con un'eleganza e una bellezza incredibile e soprattutto leggerezza, a suo modo ha rotto una regola. Il caso di Venezia invece rientra, secondo me, molto più nel cattivo gusto oramai imperante in Italia, dove ma cerchiamo di scimmiottare. Più che cattivo gusto, direi assolutamente insapiente. Siamo molto provinciali, molto provinciali. Quando diciamo la foto comincia a circolare subito nei tutti i siti che comunque fanno trend, fanno tendenza, quando i grandi giornali di questo parlano, quando c'è un pieno accordo di tutte le persone che seguono mediaticamente comunque questo evento, che questo è l'evento da portare in prima pagina, di questo si parla, questo è normale che diventi comunque l'episodio clou per cui passerà la storia questa mostra del cinema, allora, di Venezia. Dottor Nicoletti, allora dobbiamo essere limitati a noi stessi. A me questo dispiace tanto, perché noi dovremmo andare un attimo... Noi abbiamo però abbiamo la capacità di porci delle domande, anche su eventi frivoli. Un evento frivolo e stupido come questo. No, ma io non metto in dubbio... È stato un pretesto per parlare un'oretta di qualcosa che in realtà è un problema profondo. Allora, Nicoletti, io la seguo, io valuto molto il suo lavoro. Io, il mio dito era puntato più verso l'operazione Becera in sé. Lei mi ha dato opportunità di esprimere un'idea e la ringrazio. Per questo, ma il mondo delle medie è becero, sennò sarebbe un mondo eccelso in cui alcune poche persone esprimerebbero pareri sublimi che nessuno dovrebbe mettere in discussione. No, ma è un'altra epoca. No. I media è questo, certo, è tutto certo. Questo è un grande guazzabuglio in cui ci si tuffa, si nuota e si cerca di tirar fuori qualcosa che valga la pena per ricordarsi che siamo esseri pensanti. Ecco, così la penso, certo, io. Certo. Secondo però me ci pensiamo forse un po' meno, solo questo mi sento di però dire. Allora, lei, visto che è così documentato, ma lei si ricorda che anche Laura Pausini, mi sembra un anno e mezzo fa, fece finta che gli si apriva l'accappatoio e poi disse al pubblico spagnolo io también la tengo, per tutti a battere le mani, la Pausini che ha fatto. Come vede, l'espediente è sempre stato usato. Sì, sì, sì, però a un certo punto un osservatore che si vede ripetere l'espediente perde qualsiasi stima della persona che si trova di fronte. Ecco che vabbè, non è che la stima della Salemi fosse fra le nostre principali preoccupazioni. Quello che voglio dire, cioè perde qualsiasi, diciamo, volontà anche di approfondire un minimo magari la conoscenza di una persona che però, usando proprio un mezzuccio in quel senso, secondo me va a sminuire prima di tutto la propria integrità, la propria cultura, quello che è come persona prima che come essere che noi andiamo a vedere come diciamo oggetto di desiderio. Allora, quindi trasportiamolo su un piano più, così cerco di capire meglio. Questo è stato un episodio che si è svolto nel mondo intermedio e reale dei media, quindi nessuno di noi probabilmente avrà mai occasione nella vita di uscire una sera con una donna che indossa quel vestito. Ma se dovesse accadere, cadrebbe la stima per questa donna, come dice lei? Vede, la signorina Bella Hadid, che è americana e ha fatto una figura, secondo me, di eleganza e di saper campare prima che di bellezza propria, si è posta su un livello superiore rispetto a chi invece, anche secondo me con la volgarità di una abbronzatura non regolare, ha semplicemente voluto scimmiottare ciò che era stato fatto in una certa maniera e aveva avuto un ritorno di immagine ampio, perché poi non c'è niente da fare, se è una cosa è elegante e bella, anche una persona diciamo non culturalmente elevata ha una percezione di un rigore, di un'omogeneità che comunque è bella in sé. Ecco perché io dico semplicemente questo è un gesto che è andato un po' a scimmiottare e a non ottenere sì, ma sempre così, sempre così, noi viviamo sempre di riflesso di qualcosa, gli eventi ormai sono sempre meno quelli che si producono, soprattutto nel mondo della narrazione della contemporaneità. Kemal, buongiorno. Kemal. Buongiorno a lei, salve. L'ascolto. Allora, io sinceramente la ringrazio comunque per la richiamata, perché cioè, io ho provato tante volte a chiamarvi, ma è impossibile. Cioè, c'è molta richiesta. Ti chiedono sempre cosa deve dire, cosa. Però se ne approfitti adesso. Allora, va bene, la ringrazio. Quindi comunque io volevo chiamare per parlare, diciamo, di questa cosa qua del burchino qua, in Francia. Quella. Comunque, queste donne qua, davvero, sinceramente, io sono musulmano, e mia moglie è italiana, sono qua da tanti anni, poi ma sua moglie la burkinizza lei o va a giro come gli pare? No, normale, allora, una persona normale. Poi io anch'io cioè, sto vivo tra qua e tra là, però io volevo dire su questo burkino qua, cioè Burkini, se no è ambiguo. Scusi per la lo so, sai, in italiano poi dopo suona male. Vabbè, Burkini. io non sono. Allora, questo fatto qua, io vedo che assolutamente è una cosa sbagliata. Perché? Cioè, vanno lì. Cioè, queste donne qua stanno sporcando l'immagine dell'Islam. Cioè, perché... Ma quali? Quelle col burkini o quella a Venezia? Quelle col burkini. Ah, quindi lei purtroppo le devo segarla perché sta arrivando la sigla. Però mi dice una cosa illuminata. Lei dice le donne col burkini è un'esagerazione. Mia moglie va in giro senza burkini. Ci risentiremo un'altra puntata, che Marco, così me lo spiega un po' meglio. La sigla ci porta via tutto. Alla prossima.